tipo stronzo. Non chiamare il figlio di bagazza. Telefono a Chopin e gli dico che hai fatto il nome suo dicendo che stavo mettendo la portante, almeno ti impari.